ظلم کا زمانہ بیتے گا رے بیتے گا 有没得事还要去来当歌星以为会捞几个眼子就在哪里做我也有一个不发 جيبوا شباب وما قلت البنات نطلع عشان بالهوا ببلاش ما بدنا حدا يطلع نشاف Violencia engendra violencia Si la tienen en su mesa cada día Nunca van a alcanzar sabiduría Se alimentan su cuerpo y sus neuronas Megafonix, Megafonix, Megafonix La música vista del cielo Trascrizione musicale e geopolitical Aiebe, de giucino, interrump le tristi mala Tanti bubene Questa canzone dedicata a Pinar Select, canzone dal gruppo di sostegno parigino a Pinar Select, iniziamo la Megafonix di oggi. Domani si terrà ad Ankara l'ultima tappa in appello del processo a Pinar, processo che ha visto l'anno scorso la condanna della sociologa, compagna, attivista, femminista Pinar, condanna all'ergastolo, ultima procedura domani da una procedura giudiziaria che dura da più di 16 anni. Tante compagne e compagni si sono già ad Ankara e seguiremo con speranza questa ultima tappa della giustizia contro Pinar Select. E visto che ci siamo, vi mando anche un'altra canzone di Enur. Yeah. passiamo a una notizia che è arrivata dalla Nigeria, una notizia che dal 15 aprile almeno 100 ragazze sono state rapite in una scuola delle medie nel nord-est del Nigeria. Da quel momento là non abbiamo ritrovate tracce di quelle, anche se la società civile ovviamente si mobilizza per ritrovare queste 100 ragazze. Sono state rapite da il gruppo islamico Boko Haram, che già l'anno scorso aveva già circondato scuole di ragazze chiedendo a loro di uscire e chiedendo di ritornare a casa. È una campagna ovviamente contro l'educazione, la scuola per le bambine e le ragazze. Non si sa neanche esattamente quante ragazze sono state rapite, le notizie sono diverse che arrivano dal Nigeria, come per esempio le famiglie che continuano e cercano a trovare tracce delle loro figlie. Ancora 3 giorni fa, combattimenti che sono svolti nel nord-est del Nigeria per circondare i campi del gruppo Boko Haram, sperando di liberare queste ragazze. Per adesso non si sa neanche, non sono state liberate. E ascoltiamo Neka, che è una cantante tedesca nigeriana, che è abituata di queste onde. Naija, in the loud and rowdy of my world, there's a secret place where I find myself. Can I find you, Biafra? The noise of horns of thirsty Nigerians, of hustlers, of mothers confront me as I walk past Lagos. In prayer contemplation like a ghost, I feel the sorrow of a many. Still I don't know how much pain it takes, Naija. I walk the island, I walk the mainland, I see diversity, I smell capacity, but still we suffer. Why? Generators with me from myself, pity no time to waste. Like Okada, reality hits Niger. For too long, we've surrendered to the ignorance of our self-defense. In you, we are filled America. How far must we walk in calamity, in suppression? How long would it take for you to love Niger? As I sit here, I want to live, but there's so many plans for you, still I can't deliver. My respect for you is in depth, my fear of death for you might kill me. Falling Lucifer, Bessie Wahala, as we embrace you, we change you. Stay selfish, fundamental, like Africa. We still survive, we still revise, for the world needs us to be America. This soul is heavy, the little you are left for me, I charge you function in your madness. In your madness. We'll be right back. E rimaniamo in Africa, che è uscito un mese fa, un po' più forse, l'ultimo album di Angélique Kidjo, che è un album che lei ha dedicato alle donne. Vi mando una piccola intervista. Angélique Kidjo, bonjour. Bonjour. Sur la pochette de cet album, Eve, vous écrivez qu'il est dédié aux femmes d'Afrique, à leur résilience et leur beauté. Pourquoi vous écrivez ça? Celles qui portent l'Afrique, du matin jusqu'au soir. Elles sont les premières à se lever, les dernières à se coucher, quoi. Et elles font, dans une journée, tellement de choses ensemble, et seules aussi. Ce qu'on me répète sans arrêt quand je vais là-bas, c'est ne faut pas avoir peur de tomber, il ne faut pas avoir peur d'échouer, parce que la vie est faite de ça aussi. C'est la façon dont on se relève et qu'on continue à se projeter dans le futur qui vous définit et qui fait de vous la personne que vous êtes. Et elle ne baisse jamais les bras. Si les gens ont envie de voir des victimes en elle, c'est leur choix, mais elles ne sont pas des victimes. La coperta del suo CD, lei scrive che questa CD è dedicato a tutte le donne africane, alla loro resilienza e alla loro bellezza, perché sono loro che portano l'Africa dalla mattina alla sera, sono le prime a alzarsi e le ultime a andare a letto. Hanno in una giornata così tante cose insieme e anche da sole, e quando vado là ogni volta mi ripetono di non avere paura di cadere, di non avere paura dei scacchi, perché la vita è fatta di questo anche. E il modo con quale vi rialzate e continuate e riprendete il vostro futuro, che definisce la vostra personalità, chi siete. E loro non abbandonano mai, e se la gente vuole vedere dentro loro delle vittime, scelta loro, perché comunque questa gente, perché comunque loro non sono vittime. Oh, when I fall, ever, ever, ever, ever. 1 plus 1 is equal to 2, but you and I, we all say... me. My name is Continuiamo adesso con una selezione musicale e con questa cover di Né quelque part di Susanna Baca. Si pas se venir. Oh, je sais pas non plus les trottoirs de Manille, du Paris ou d'Alger, pour apprendre à marcher et traîner quelque part. Et traîner quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Du passage. Et savait son ornit que rentre de voyage ou que reste chez soi. Il savait son l'ourso. Et traîner quelque part. Et traîner quelque part. C'est partir quand on veut, revenir quand on part. Sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, du Paris ou d'Alger, pour apprendre à marcher. je suis né quelque part. Je suis né quelque part. Laissez-moi ce repère où je perds la mémoire. Screamer waiting at the bus stop. County jail letter in the mailbox. House you sweat. wet socks. Keisha braided her hands on the porch to get that extra guap. Conviction facing rock bottom. Pray she bounced back on top. American dream, a nightmare. Please make it stop. Neighbors watching. Hell, modern day dress. God slinging rocks. Black boy, white tank top. Baggy jeans, dreadlocks. Streaming of that drop top. Non-stop Chinese spot. And let me get a black and Mount Hawk. Navigate liquor stores, project floors, and vacant lots. We be the have-nots. When we have, we become what we got. Another car ride by system knock. That new shit, pedestrians jock. Hip-hop corner, stay a track in the flock. The paint immaculate watch. Single mothers hustle to punch the time clock. Crime or cash crop. Somebody running the dime drops. Ice grills mask a kind heart as time talks. Fathers are holograms. Sons waiting for the day to snuff Uncle Sam. Why not? No sympathy for that man. He get what he deserved. Damn. I said he get what he deserved, y'all. Look, and he get what he deserved, y'all. They keep telling me. Body found in the attic, contents of a purse scattered. Leftover reshattered, clothes tattered, lipstick smeared. Broken glass, no news reports on the matter. Nobody gather, nothing changed, asked around, bowed a name. Some said Tamika, some claim Lorraine. The tag on the foot said Jane. I wonder who she was, did she give and receive love? Did she fight back or just gave up? She lay dead, legs cold, hair gold. Framed in a child's pose, bruised nose. Semen stay pantyhose, Sade on the radio. Sorrow singing through the window. I wonder if pain has a tempo, I better slow. Street survived, never lived, and we died. Drink the bird glass, still in higher. Born on the wrong side, is there a right side? Classified, I labor sober, nickel and dime. And who decides? I lies by sign in order down the line. They see they gentrified, pushes outside the city lines. Sirens frame the evening, profile for being not white. Breathing, walking the streets, poor cops, they fiending. Probable reason, no donut shops to tease and roll up. Want a couple cats, Spanish speaking. Mexicans, but they screaming Puerto Ricans. They thinking they all the same, fuck them. Blow out their brains, killing season. It's war hour, wish they could take us all out. Let the dogs out, niggas should be hanging from trees. Auction off now, hold them up, blast until they all down. Fire shots in full force now, they never see the courthouse, y'all. They never see the courthouse, y'all. They never see the courthouse, they never see the courthouse, they never see it, hey. And something keeps telling me. My brother say, runs and screams, oh, can you hear me? Tell the world, I'm walking in the black, yeah. I can see, through the sirens and screams, oh Lord, can you body dropped today on the block. Somebody just got shot today on the block. Look, y'all, watch today on the block. Today on the block. Another body dropped. Somebody just got shot today on the block. Look, y'all, watch today on the block. Today on the block. Today, another body dropped. Somebody just got shot. Look, y'all, watch today. Another body dropped. Somebody just got shot. look your watch. Today on the block. Today on the block. Today on the block. Po Susanna Bacca avete sentito Aku a Nauru e continuiamo cambiando completamente ritmo con Belas di Canteca di Macao. De esa manera, quien me quiere libre. का जमाना बीतेगा रे बीतेगा 你有么个事还要去来当歌星以为会捞几个眼子就在哪里 装我也有你اسمعوني جيبوا شباب وما قلت البنات نطلع عشان بالهوا ببلاش ما بدنا حدا يطلع نشاف Violencia engendra violencia Si la tienen en su mesa cada día Nunca van a alcanzar sabiduría Se alimentan su cuerpo y sus neuronas Megaphonics, Megaphonics, Megaphonics La música vista del cielo Trascrizione musicale e geopolitical Aie bete, di te no Interrumpli tu istimala Tanti per me ne ho fatti Ni vuoi se coglio d'ala Ma ha Eine Kelle Arsen, wir sind lesbisch, haben Mut, haben schon so lange gewartet. Hilf uns von uns, nur die Wut. Latiga, Latiga, non sono perdita, ho scelto da me, con la notte vita. Mafia, tutti lì, pour le même combat. Mafia, tutti lì, pour le même combat. Mafia, tutti lì, pour le même combat.